Europa 24. Europa in orbita tra Marte e Giove con l'esplorazione spaziale Rosetta, una missione scientifica senza precedenti che vede l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana collaborare sulla via di una prima scientifica assoluta. Allora, il dottor Roberto Flamigni, direttore scientifico dell'ASI, al nostro microfono. Rosetta in questo istante si trova piuttosto lontana nello spazio, ben oltre Marte e un po' più vicino a Giove, quindi... Rosetta, quando è partita e da quando è in ibernazione? È partita nel 2004 ed è in ibernazione dal 2011. Perché l'avete messa in ibernazione? L'abbiamo messa in ibernazione perché, visto che andava molto lontano dal Sole, i pannelli solari non ce la facevano a dare sufficiente energia. La sveglia letteralmente suona in queste ore. Che cosa succede? Rosetta comincia a riattivare i suoi circuiti, il computer centrale si attiva per fare una verifica dello stato di salute di tutti i sottosistemi, fa in maniera di avere i pannelli solari puntati per bene verso il Sole e si rigira da solo nello spazio fino a trovare la migliore collegamento, il miglior collegamento possibile rispetto alla Terra. Le istruzioni a questo punto sono: dai la caccia a una cometa? Le istruzioni a questo punto no, lui già lo sa, Rosetta già lo sa che deve dare una caccia alla cometa. Nel frattempo comunque continua il suo viaggio e si sta avvicinando sempre di più alla cometa. Tra le cose straordinarie di Rosetta c'è che non solo deve raggiungerlo, ma c'è l'intenzione di, appunto, land, dunque atterrare con una strumentazione sul corpo fisico della cometa. Esatto, esattamente così. È un'operazione mai fatta prima, mai tentata prima, sarà la prima volta con tutte le incognite di una prima volta su un corpo come sono le comete, che, come dire, si cambiano e si evolvono molto rapidamente nel tempo. E noi torneremo a parlare di questa formidabile avventura scientifica europea, peraltro vi anticipo l'aggancio con la cometa, se tutto andrà bene, previsto per novembre. Ma ora torniamo a terra con l'agenda della settimana europea a cura di Sergio Nava. Una settimana ad alta tensione, quella al via oggi in Europa, inaugurata proprio in queste ore dal Consiglio Affari Esteri, con in agenda i rapporti con la Russia e il caso Marò. La giornata clou sarà però mercoledì, con la presentazione dell'attesa comunicazione della Commissione Europea sui nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, che potrebbero puntare a un taglio del 40% da qui al 2030. Commissione, Germania e anche Italia guardano all'obiettivo massimo, ma il sistema industriale, compreso quello della penisola, ha lanciato l'allarme sull'impatto che un simile taglio potrebbe avere sulla competitività e i costi per le imprese. Si tratterà probabilmente fino all'ultimo, con la concreta possibilità che la proposta di taglio scenda al 35%. Sul tavolo dopodomani anche le norme sul gas di scisto, la controversa nuova risorsa energetica che molti dubbi ha generato in Europa per i rischi legati alla sua estrazione, insieme alla comunicazione del commissario Antonio Tajani sul rilancio della competitività industriale. Domani sarà una giornata storica a Bruxelles. La Serbia avvierà i negoziati di adesione all'Unione Europea. Sempre domani il premier turco Recep Tayyip Erdogan arriva nella capitale europea nel pieno della bufera che ne ha macchiato l'immagine internazionale dopo lo scandalo corruzione e la svolta autoritaria contro magistratura e opposizione. Nel weekend infine tutti a Davos per l'imperdibile World Economic Forum, appuntamento che riunisce ogni anno politici, intellettuali e uomini d'affari sulle nevi svizzere. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora noi invece abbiamo Valeria De Rosa che ci parla di un dossier molto delicato che sta facendo discutere la Spagna, ma non solo. La proposta non è ancora legge, ma presto lo sarà, perché i popolari di Mariano Rajoy hanno la maggioranza. Quindi la brusca inversione a U della Spagna arriverà. Interruzione di gravidanza solo in caso di violenza o gravissimi rischi per la salute e mai oltre la 14ª settimana. La scelta del governo popolare rischia di riavvicinare molto il paese alla sinistra, quella sinistra che nel 2010 aveva rivoluzionato la materia, permettendo in alcuni casi l'aborto fino alla 22ª settimana. Le proteste hanno infiammato spagnole e spagnoli e varcato i confini del paese. È insane because the current law works. È insano perché la legge attuale funziona bene. I dati dimostrano che con questa legge il numero di interruzioni di gravidanza è diminuito. Così l'europarlamentare dei Verdi Raúl Romeva Irueda. In Spagna si registrano 120.000 aborti l'anno, in Italia 106.000, numeri simili in gran parte dei paesi europei. E le statistiche confermano che laddove le leggi sono diventate restrittive, il numero di aborti illegali è cresciuto. L'Europa, però, quella delle istituzioni, non intende occuparsi di questo. questo capitolo. A dicembre il Parlamento ha respinto la risoluzione Strela su salute e diritti sessuali e riproduttivi. Qualche giorno fa anche la Commissione si è allineata, dichiarando che la materia è di competenza degli Stati membri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 14:06, per ora è tutto. Da Pietro Lacorte in regia, Gigi Donnelli al microfono, l'appuntamento con Europa 24 domani intorno alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.